così dice il Signore: ricorreranno a me nella loro angoscia. Venite, ritorniamo al Signore. Egli ci ha straziato ed egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed egli ci fascerà. Dopo 2 giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza.